tra l'inverno e le architravi, il sole si era già smarrito. Tu però non ci pensavi al segreto incustodito nell'ombra chiara della stanza, con una calza e l'altra già sfilata alla medesima distanza. Eri bellissima e un po' sciupata. E poi fu inutile il complimento, è prevedibile la sorpresa, una specie di presentimento, il cuore fermo in fila per la spesa. E poi fu quando lui disse basta, mentre versavi del caffè nero dentro una tazza di carta pesta, la prima volta che fu sincero. E le tue rose sono volate via, e le tue rose sono volate via. Quando partisti faceva freddo, troppo freddo per nevicare, quando le luci intermittenti degli alberi cominciarono a luccicare, ad oscurare e illuminare il bordo della carreggiata, dove le auto col satellitare si fermavano alla spicciolata. In aeroporto molti giornali, finta fretta ed impazienza, lui ti guardava ma con gli occhiali per non vedere la tua partenza, e poi di corsa verso l'imbarco fino alle hostess con le divise. Eri la stessa del passaporto per la ragazza che ti sorrise. Le tue rose sono volate via, e le tue rose sono volate via, insieme agli ultimi passeggeri trovasti posto in aeroplano vicino a un uomo con gli occhi seri, che ti aiutò con i bagagli a mano. Stanotte in cielo sarà burrasca, annunciò subito il comandante, con una cicatrice in tasca e come rotta rughe sulla fronte. E le tue rose sono volate via, e le tue rose ed eri triste ma neanche tanto, come un dicembre tradizionale, come un euforico rimpianto, forse tra poco sarà Natale. Ed eri sola come un bambino, solo sull'autobus della scuola, guardando fuori dal finestrino, pensavi adesso la terra vola. E le tue rose sono volate via.